Insieme, insieme, che cos'è questa parola? Sola a dirla cuore vola, lì vicino a te e lascia sola me. Sensazioni evanescenti, inquilinide sorgenti, sta lasciando in me. E ormai, in le lingue dichiarò, scioglie il tempo le sue ore, ma qui vicino a me, è tempo ancor di te. Sei qui.